Il bacio della buonanotte. Che strana giornata oggi, mamma. In realtà, una come tante altre, da quando ho messo piede su questa imbarcazione. La cosa bella è che sto imparando a governarla. Per saperla guidare ci vorrà un po' più di tempo. Avevi proprio ragione quando mi dicevi che per imparare a nuotare dovevo semplicemente, si fa per dire, entrare in acqua e provarci. Con la barca funziona più o meno alla stessa maniera, ma ovviamente ci sono molte più variabili da considerare. Il vento, prima di tutto, ma anche le correnti, le maree, le condizioni meteorologiche. Ma soprattutto devi avere ben chiaro dove vuoi andare. E io non è che questa cosa ce l'abbia proprio chiara in mente. Va da sé che un'idea ce l'avrei, ma è praticamente impossibile. E non potendo venire da te, non potendo raggiungerti, devo capire che strada prendere per provare a continuare a vivere senza te accanto. Non è facile sapere che direzione prendere quando tutto intorno a te è grigio. Nemmeno la luce ti aiuta, perché la nebbia è così fitta che non capisci nemmeno dove ti trovi, dove sia all'orizzonte e dove inizi il cielo. La terra poi nemmeno a parlarne. Se volessi tornare indietro, nemmeno potrei farlo. E così provo ad andare avanti, o almeno credo. Mantengo la barra dritta e provo a non farmi vincere dalle onde. Ti dicevo, oggi è stata una giornata strana, perché ho avuto come la sensazione che ci fosse qualcun altro sulla mia rotta. Non so dirti esattamente dove, se avanti o nella stessa tratta, ma sentivo come se ci fosse qualcosa. Avevo la sensazione di non essere solo in questo mio tragitto verso l'ignoto. Eppure, quanto ci si sente soli quando si prova questa sensazione? Nessuno può mai capire, ed è proprio questo che mi condanna ad una sorta di solitudine che io stesso mi creo. La paura, anzi, la convinzione di non essere capito. Perché per quanto purtroppo io non sia il solo ad avere vissuto tutto questo, resta però il fatto che nessuno può capire cosa sto passando. Anzi, spesso non lo capisco nemmeno io. Oggi ho provato a guardare oltre, ho provato a capire chi ci fosse sulla mia rotta, perché questo tentativo volevo farlo, condividere con qualcuno il percorso e le sue difficoltà, qualcuno che sappia dirti, ad esempio, se virare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ma per quanto potessi tentare, non riuscivo a vedere nulla. Eppure lo so, mamma, che c'era qualcuno lì, non troppo distante da me. O magari era più di uno. Chissà se fossero su una barca, un gommone, una nave, quali le loro storie, i problemi, i sogni, le aspettative. Da quando sono qui penso moltissimo e spesso rifletto su quante volte nel corso della vita incrociamo, magari anche solo con lo sguardo, persone delle quali non sappiamo nulla. In quell'istante di sguardi che si incrociano, noi in realtà stiamo entrando in una frazione delle loro vite e dei loro pensieri, con tutto il carico di speranze, criticità, problemi più o meno gravi e gioie più o meno grandi. A volte basterebbe sorridere, così gratuitamente, senza un motivo, quando quegli sguardi si incrociano per far capire che sì, anche se non ci si conosce, si può essere in qualche modo partecipi, solidali, e magari migliorare per una manciata di secondi la giornata di quelle persone. Ecco, se fossi riuscito a scoprire chi c'era questa mattina sul mio stesso tragitto, avrei rivolto un sorriso, un saluto. Avrei agitato la mano solo per fare capire che sì, ci sono anch'io. Magari avrei migliorato il percorso di quelle persone, o magari no. Sarebbero rimaste indifferenti, ma lo avrei fatto. D'altra parte, sei stata tu ad insegnarmi l'arte del sorriso. Mi hai insegnato a reagire, ad andare avanti, sempre e comunque, a guardare al di là dell'orizzonte. Sì, proprio quello che adesso non riesco a vedere. Siamo sempre stati tu ed io, vivevamo l'uno per l'altra. Eravamo il nostro nido, la nostra casa. Ovunque fossimo, se eravamo insieme, era come se fossimo a casa. Adesso però a questa casa manca il tetto, mancano i muri portanti, le fondamenta, anzi, manca un po' tutto. Nonostante abbia portato alcune cose con me, loro sono solo una rappresentazione di ciò che eravamo. Questa casa ce l'hanno distrutta e ora la devo ricostruire, da solo, con le mie forze. Mi piacerebbe prometterti che ci riuscirò, vorrei tanto dirti che sono sulla strada giusta. La verità, Mami, è che non vedo niente. Riesco a vedere solo attraverso i nostri ricordi. Vivo una vita che abbiamo già vissuto, ma che al momento è l'unica possibile per me. Mi addormento col ricordo del tuo bacio della buonanotte e mi sveglio col tuo buongiorno. Non c'è niente di paragonabile al bacio della buonanotte della propria mamma. Non lo dimenticherò mai. Anzi, lo potrei riconoscere tra migliaia di persone perché ricordo perfettamente il profumo della tua pelle, di mia madre. Ed è grazie a questa percezione che mi sembra di sentirlo ancora in casa e di addormentarmi pensando che ci sia ancora tu a darmelo. Una sensazione mia, personale, che percepisco io e che ovviamente nessuno potrà mai comprendere. Ed è per questo che non ne parlo con nessuno. Sì, il tuo bacio della buonanotte mi manca terribilmente. Per noi due era un rito il bacio della buonanotte e la preghiera con la quale ringraziavamo Dio per la giornata trascorsa e donata, per ciò che eravamo riusciti a realizzare e per il tempo trascorso insieme. Facevamo la nostra preghiera ad occhi chiusi, mano nella mano, e dopo aver entrambi pronunciato Amen, mi davi il bacio tanto atteso. Lo attendevo da piccolo esattamente come da grande, esattamente come adesso. Non so cosa non farei per rivivere quel momento. Il più bello del mondo, quello che dà la misura, il più bello del mondo, quello che dà la misura della giornata che è stata ed è preludio a quella che deve venire. La vita per noi è stata questa e quindi non posso fare altro che armarmi di tanto coraggio. Ma soprattutto devo trovare la forza di resistere, non mollare e andare avanti col tuo ricordo nel cuore. Navigare su queste acque rende ancora più reale il realistico. Cosa significhi camminare ogni giorno senza te al mio fianco? È come non avere più un'ancora, un faro che indichi il percorso. Avere una madre significa avere anche un futuro, significa avere la forza di lavorare duramente per far sì che sia tutto come lo sognavi da bambino, avere una spalla alla quale appoggiarti nei momenti di difficoltà, un abbraccio certo e un appiglio fermo. Ho un'immagine precisa della mia vita senza di te, ed è esattamente quella che vedo ogni mattina da questa barca, una distesa d'acqua indistinta, una nebbia fitta che nasconde la vita intorno e onde alte che si frappongono tra me e il mio cammino. È come navigare nel buio, succube di maree e della potenza della natura. Io sto procedendo, ma non so dove. Potrei anche essere fermo in mezzo al nulla da mesi. Non riuscirei nemmeno a capirlo. Procedere in questa vita senza di te è come non avere nulla intorno. Ti ho scritto una poesia, Mami, pensando al tuo bacio della buonanotte. È l'unico modo che ho per dare forma ai miei pensieri e far finta che tu ci sia ancora, semplicemente guardando questi fogli e ciò che c'è scritto sopra.